Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Ciao a tutti, benvenuti, l'appuntamento classico delle 3 del mattino più o meno, ora minuto più, minuto meno, quello delle nostre pillole, il nostro riassunto in pillole appunto, ecco il titolo e il motivo di questa mini rubrica della serata Convento di Ronato. Pump of the volume. Pump of the volume, c'è un Dave carichissimo, dobbiamo capire e fare un mea culpa ai nostri barman che hanno secondo me fatto una correzione nel succo d'arancia. Ciao, che pop up the volume qua. Su, il volume è colemico, gli su, non sento nulla. Assolutamente, assolutamente, sono ripeto. Sono sordo. Un saluto festoso a tutti. C'era la correzione qui nel succo d'arancia, secondo me. E ovviamente buonasera a Nadia, quota rosa del nostro, grazie, grazie, del nostro trio, o meglio, quota bionda a questo punto. Tornata quota bionda, sì. Tornata quota bionda, però quota rosa nell'anima. Allora un'altra bella. Ma come porti i capelli bella bionda. Tra l'altro ci sono poche canzoni sulle bionde effettivamente, Ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo. Ci stavo pensando ora. Spiegatemi quale sarebbe il motivo. Ma niente di personale. No, Nadia. Però nel senso di solito sono numerose poesie sulle bionde. Esatto, Nico, sono molto stigmatizzate in termini iconici nel bene e nel male. Grande, che è questo, il puffo, no? Sì, ah, grande è puffo. Il grande puffo. Sì, è in, come si dice, in vestiti in borghese, per quello che non l'ho riconosciuto. Beh, lo sapete, no? Cosa c'è sotto il cappellino, il motivo per cui non può toglierselo, vero? No. Tra l'altro simpaticissimo. Ecco, cercatelo su Google. No, tra l'altro simpaticissimo. È veramente, veramente simpatico. Non l'ho capito. Ma cos'è, indiano? No. No, non lo sapete la storia dei puffi? Beh, no. Raccontacela, racconta. No, non ho capito. Cercate su Google del perché hanno le cose sulla testa, non se le tolgono. Ma le orecchie, no? Chi lo sa? Chi Vabbè, lo sa cosa dobbiamo sotto? Googlare. No, adesso mi interessa, può sconvolgere e cambiarmi la vita. Però Va bene. Potrà sconvolgere la vita, esatto. No, dicelo, perché no, a questo non punto... Non si può, va bene. Anzi, invitiamo veramente tutti ad andarselo a cercare su Google. Cosa sta succedendo, Dave? Ho cambiato le pile, ho cambiato. È qualcosa di incredibile, di incontrollabile. Senti, dammene un po' anche a me di pile cariche, perché... Ma questa era una molestia, non erano pile cariche, Subito. No, voi parlate pure. Dove c'hai la presa USB, Nadia? Ti faccio un aggiornamento firmware, guarda. Ma io non ho ancora capito, ma adesso oltre a vederci ci sentono anche. Cioè, scusa. sì, assolutamente. Oltre a sentirci. È per quello che Dave è carichissimo, perché lì la telecamera lo sconvolge e gli dà quella marcia in più. Io la telecamera. Allora, io vorrei dire la mia disculpa che sono le ore 3 di mattina. Sei sicura? Sì. E ci sono 19 gradi. Del 27 aprile. No. 004 27 307 secondi. Va bene, sì, allora, diamo i numeri a questo stiamo, punto stiamo, Ciao, ragazzi, stiamo praticamente non dicendo niente di nuovo, quindi io direi che se continuiamo così sarebbe meglio se parlassimo di temi di attualità. Avete la scelta, potete parlare di temi di attualità, raccontare barzellette o fare una piccola cosa promozionale di spot di qualche serata. Queste sono le tre opzioni secondo me. Io racconto le barzellette. Parliamo di cose serie. Io non ho trovato il perché del cappello dei puffi. Non c'è proprio scritto su internet. Benissimo. Cosa hai cercato? Scrivi perché puffi di cappello. Scrivi puffo senza cappello. Puffo senza cappello. Ecco, guarda, è la prima cosa che... I puffi, 8 cose che non sapete. Wired. No, così almeno io sono la giuria di qualità e ti posso dire se si può raccontare o meno. Vediamo. Allora, Cristina D'Avena, giornale, protagoniste. Sì, vabbè, ma non è che c'era bisogno di leggere un mega... È un libro, praticamente, esatto. Essere animata. Un trattato su questa cosa. Addirittura polemica. Ah! Ricorda il cappello del Ku Klux Klan, addirittura. Vabbè, ma no, non è così. No, vabbè, sì, dai, come già sono capito, lo cerco io. Come sono le scie chimiche, tutta la teoria vabbè, del Vabbè, adesso ti leggo questa. Secondo i creatori, il cappello dei puffi si rifà al berretto frigio indossato dagli schiavi liberati dell'antica Roma e diventato poi universale simbolo di libertà durante la Rivoluzione francese. Ma cosa si Dov'è la telecamera che voglio far vedere il motivo? È là davanti, guarda, ho davanti a te io questa qua. Beh, noi non l'abbiamo vista. Allora, è questo il motivo. Si può raccontare? Ah, vabbè. Era una cosa abbastanza ovvia. È una testa. Ok. In pratica i puffi hanno una testa di Esatto, ci sta bene. Ora l'abbiamo capito. Siamo riusciti anche oggi a veramente partire con i migliori propositi del mondo di non essere e a scendere e scivolare, anzi a precipitare. Esatto. Ora l'abbiamo capito e possiamo confermare appunto che era meglio non parlarne. Esatto. Quello che c'è da dire è che tra l'altro simpaticissimo il grande puffo, veramente simpatico. Ma come tutti gli ospiti di questa sera. D'accordo, sì. Sono d'accordo. E a questo punto non ci resta che salutare. Grazie. No, è molto, no, è molto grande, nel senso che è veramente altissimo. Cioè, sì, 50 metri era, di uomo. Non aveva niente di puffoso. Esatto. Il Fanuccio che sta girovagando per il locale. 50 metri di un uomo. Un gentile invito di. Anzi, ci sta proprio ignorando. Comunque, proprio in modo a questo molto punto sottolineo che vorrei salutare tutti perché. Così. Perché abbiamo fame. No, no, devo andare a fare la papaya. La papaya, cioè coltivi papaya. Ha preso l'orto, quindi. Ma secondo me se fanno gli esami delle urine a Dave lo rinchiudono a vita, gli danno l'ergastolo praticamente. Gli danno l'ergastolo. Per eccesso di energia. Esatto. Vi ricordate quella volta che uno è stato buttato fuori dal nostro locale? Non so se l'abbiamo raccontata. Partecipazione. Non so se l'abbiamo raccontata in radio. Se non l'abbiamo fatto, direi che merita un qualche secondo. Menzione. Tu Dave la sai questa storiella? Sì, la so, ma non. Non è mai stata diffusa, tuo parere? No, non è stato radio diffusa. Allora diffondiamola perché questa è veramente, diciamo così, l'emblema. Esemplare. L'emblema dello stile convento. Proprio così. Praticamente era il tutto avvenuto in uno di questi divanetti proprio davanti a noi. E c'era un ragazzo che nel bel mezzo della serata, penso intorno all'1:30. Che insomma, ha distrutto l'iPhone? No, praticamente si è addormentato. Ah. E quindi è passato Gabriele, il nostro direttore, l'ha visto e ha invitato il buttafuori a farlo uscire. Perché diceva che non era una bella immagine da vedere. Quindi il buttafuori si avvicina al ragazzo che sta dormendo e con molta delicatezza lo sveglia e gli dice: scusa, devo accompagnarti fuori. Il ragazzo si sveglia mezzo assonnato e dice: ma come? Non stavo facendo niente. Come chiunque tra l'altro reagirebbe di noi. Esatto. in una simile questione. E il buttafuori gli dice: sì, appunto, non stavi facendo niente. Se vuoi stare qua devi fare festa, devi festeggiare. È stato allontanato forzatamente per mancato entusiasmo. Il ragazzo si è portato fuori mi diceva: ma non infatti ho fatto è bellissimo il momento. E tra l'altro dal 2020 sarà introdotto come reato penale addirittura. L'ho sentito anch'io, adesso è fermo la mancata partecipazione. Esatto. Ma è assolutamente in cantiere come nuovo. Mi rimetto alla clemenza della corte. Sì, assolutamente sì. Beh, diciamo che stasera non ci sarebbe bisogno di buttare fuori nessuno, perché altro che mancata partecipazione. No, anzi, se c'è io coinvolgimento. A interpretare il linguaggio del corpo di quelli che sono sul palco. Sono iperattivi. Stanno dicendo: se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo, secondo me. O simili, Fai l'incursione. No, non mollano. Fai un'incursione. Vedendoli così, mi sembrano tutti molto amici di Dave, perché c'è molta energia nell'aria. Vediamo se è motivata o meno. Spero che ti sia divertito. Vai, mi piace. Poi c'è questa sorta di ballo figurato che si sta palesando in pista, nato da tre individui, già diffuso a una decina. Sono dei russi, secondo me. Non sono come mai. Insomma, c'è questo ballo figurato, passi fondamentalmente a caso che tutti seguono. Però sta avendo un discreto successo. E ora si faranno del male. Fra tre. Esatto. Due, cioè del uno. Dolore, del sangue a brevissimo. C'è anche una fuga. No, non è una fuga, era un'altra è cosa. È l'amore. No, devi cambiare una vocale. È una. Questa era una toccata una, invece. Una vocale, una fuga. Sono il numero uno. No, l'altra vocale della prima sillaba. Una foga. No, vai avanti con i tentativi. Una fega. No, vai avanti, ne ancora due. No. Cazzo, quali sono le vocali? Parte in forte. Visto che prima c'era anche l'opzione della barzelletta. Della barzelletta. So che la volevi. Sai, sai dove si lava la foca? Nel bodé. Vabbè, con questo è giusto, Dave, è veramente giusto, sempre informissima. È giusto il momento per salutare. Grazie, veramente, ragazzi. Veramente informissima sempre. Grazie per averci supportato fino adesso. Un saluto festoso. Aspetta, io devo lanciare un appello. Per favore, cari baristi, se ci state ascoltando, non dategli più quello che gli avete dato stasera. Vero, ma per anche favore, perché so, mi sembrava... Datelo a me, che ne ho più bisogno io. Mi sembrava una persona normale, tranquilla. Quattro ginseng. Sceccrati. Quattro ginseng. Sembra un po' il... chi è? Aspetta, è... Aldo Giovanni Giacomo. Sì, Giacomino. Giacomino si sposa. Esatto. Grande momento. Va bene. Che tra l'altro mi hanno detto, non l'ho visto, ma insomma, come si dice, tre recensioni fanno una prova, che tanti sono andati a vedere il film, sai che si sono adesso divisi, ognuno fa un po' carriera a sé, e dicevo che si sono un po' divisi, è uscito il film di Aldo, cioè il pelato dei tre, e dicono che sia... Cioè, praticamente l'apoteosi della non risata. Solo lui? Aldo. Solo lui, solo da solo lui. Aldo è quello... Quello pelato, Aldo quello è pelato. Aldo. Aldo. Anche perché Giovanni si è dato alle corse, alle ultramaratone. Ah, perché si sono... Si sono separati artisticamente. Ah, questa non la sapevo. No. Si sono separati artisticamente. Sono molto amici ancora. Giovanni si è dato allo sport estremo, cioè fa delle maratone lunghissime, insomma prove. Giacomino probabilmente sta ancora cercando di sposarsi, e Aldo è andato avanti da solo, ma mi hanno detto, insomma, voci e critiche, che il film che è uscito da solo non faccia assolutamente ridere. Però così è. Signori, io direi che è il momento giusto per unirsi alla folla per salutare gli ultimi ospiti. Sono che d'accordo. Ci stanno in questo momento. Salutiamo. Salutiamo, un saluto festoso da Mr. Dave. Da Nadia. E da Master Nick. Io continuo nella mia campagna sociale nel salutare e ricordare Sandrino dovunque esso sia. Ciao Sandrino. In Spagna, però, insomma, probabilmente continuo, in Grecia, ecco, chi lo sa. Mando sempre questi messaggi di vicinanza e di compartecipazione. E un po' anche chissà, secondo me di semi-polemica velata. Però chissà, la chiudiamo chissà qua. Chissà quante miglia come frequent flyer raccoglie. Davvero. Ha fatto lui di solito va col track di Flo, col camion di Flo. A scrocco, bene. Flo o simili, ovviamente. Assolutamente. Ciao ragazzi. Grazie ragazzi, buona settimana e alle prossime. Commento rinnovato. Ciao.